Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un arrivederci alla Fiorentina, arrivederci in Coppa UEFA con tutta probabilità, ma a patto di non perdere l'ultima partita a Bucarest in casa della Steaua. Un bel tornato alla Juventus, che già era qualificata con la doppia impresa con il Real Madrid, ma ora con questo semplice pareggio in casa dello Zenit si potrà contentare di un altro pareggio in casa con il Bate Borisov a Torino, quindi per vincere aritmeticamente il suo girone e quindi affrontare nella fase eliminazione diretta che ripartirà a fine febbraio un avversario teoricamente più malleabile. Stasera tocca all'Inter e alla Roma, più tardi le vigilie di queste partite. Adesso sentiamo i commenti, a cominciare da quello di Claudio Ranieri. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, siamo venuti qui con la voglia di fare bottino pieno, non ci siamo riusciti, io credo un po' per sfortuna, un po' per precipitazione, però abbiamo fatto una gran bella gara, abbiamo fatto una buona diga a centrocampo e poi siamo stati molto bravi a ripartirgli e abbiamo creato, io credo, 4-5 occasioni da gol. Non lo so se è una squadra da Champions, quello che vogliamo essere squadra, l'importante è esserlo ogni domenica. Sabato avevamo fatto i complimenti all'Inter, questa sera bisogna fare i complimenti alla Juventus che ha voluto, non dico riscattare, ma insomma far vedere che stiamo nel momento positivo continua. Marchisio, prima che si facesse male, ha fatto delle ottime partite, per cui aveva cementato il centrocampo. Sono contento che si sia ripreso e adesso sta facendo bene, per cui ero convinto della coppia Marchisio-Sissoko, dovevano soltanto stare attenti perché tutte e due tendono a partire, per cui invece uno doveva sempre rimanere davanti alla difesa. Un risultato indubbiamente positivo, una prestazione decorosa, insomma, poteva far meglio che Camoranesi dal mio punto di vista sotto l'aspetto disciplinare, un paio di entrate di cui una era codice penale proprio in cui l'arbitro lo ha perdonato, insomma per nulla giustificata dal contesto della partita che non era amichevole, tutt'altro su quel campo gelato poi, ma insomma non comportava entrate di quel genere, che sono poi anche sempre pericolose perché non si sa mai cosa possono innescare negli avversari. Ieri sera da quel punto di vista è andata bene che l'hanno accettata senza che la partita degenerasse. Un limite caratteriale questo di Camoranesi, che è tra l'altro molto singolare, molto strano, perché è un giocatore di rara intelligenza tecnica e di rara intelligenza fuori dal campo, però in campo ogni tanto ha dei comportamenti che invece della sua intelligenza insomma, farebbero dubitare se non ci fossero tutte quelle altre prove. Chiudiamo qui per il momento con la Juventus, poi ovviamente 8-0-0-24-0-0-24 per qualsiasi altro genere di intervento e di commento da parte vostra. Apriamo il capitolo assai meno divertente, che è quello che riguarda la Fiorentina, e sentiamo il commento finale un po' rassegnato e un po' invece anche propositivo da parte di Prandelli. Soprattutto all'inizio eravamo troppo aperti e abbiamo cercato subito di andare a ricercare il gol, siamo stati sicuramente sfortunati, anche un po' ingenui, soprattutto sul primo gol, perché i ragazzi dicono che era fuori gioco, almeno così mi dicevano. E poi quando abbiamo subito il secondo gol, lì poteva succedere veramente che la squadra potesse perdere la testa, invece ha mantenuto secondo me un buon equilibrio e abbiamo giocato sia fraseggi sull'esterno sia pallate, abbiamo provato un po' di tutto, insomma certi episodi ci hanno dato contro. Usciamo secondo me a testa alta, perché la prima esperienza contro queste grandi squadre è un po' paghi. Però, ripeto, secondo me questa è una squadra che ha un futuro, che sono molti ragazzi giovani e queste esperienze sicuramente serviranno. Sono un po' di mesi che sto dicendo che queste sono squadre che sono abituate a giocare a questi livelli, però con tutta sincerità devo dire che, a parte la partita con lo Steaua, che magari potevamo fare qualcosa di più, secondo me la squadra ha sempre giocato al calcio, ha sempre cercato di fare gioco, abbiamo sicuramente dato l'opportunità a molti ragazzi di fare molta esperienza e io sono convinto, ripeto, questa è una squadra che avrà un futuro. Questo era il commento di Prandelli. È vero che questa squadra avrà un futuro, è vero che quest'anno il processo di maturazione però sembra un po' rallentato da parte della Fiorentina. Ora, questo dipende da molti arrivi di nuovi giocatori, dal fatto che la squadra sia stata molto potenziata sia sul piano della qualità che della quantità, però ecco, diciamo che per i tifosi viola si auguravano che i tempi fossero un pochino più brevi, e invece non mi pare, dai risultati ma anche da certe prestazioni, che questo lo si possa dire. Insomma, è stato molto sincero e molto appropriato il commento di Frey, cioè questo Lione è ancora al di fuori dalla nostra portata al momento, e mi sembra una responsabile ammissione di limiti che tuttora esistono. Un ascoltatore scrive: Girardino mai decisivo nelle partite che contano. Beh, insomma, mai decisivo nelle partite che contano, se parliamo di quella di ieri, perché non ha secondato, perché se qualcun altro avesse giocato a livello di Girardino ieri sera, ma non soltanto per il gol, anche per le sponde, anche per come ha mandato al tiro anche dei suoi compagni di squadra, probabilmente staremmo facendo altri discorsi in questo momento. Sentiamo ancora due interventi dal dopo Firenze. Il primo è proprio di Girardino. Abbiamo giocato questo girone di Champions e per molti era la prima volta, quindi è normale aver incontrato delle difficoltà, un pochettino magari di, in alcune occasioni, di inesperienza. Abbiamo provato a rimettere in gioco la partita, non ci siamo riusciti e ci è mancato qualcosa. Questo era Girardino. Il prossimo è un altro italiano che gioca però in Francia e che ha fatto la sua discreta figura ieri sera, che è un nazionale grosso. Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che per la Fiorentina non era facile perché doveva iniziare la gara per cercare di vincerla subito. Noi l'abbiamo un po' aspettati e siamo ripartiti bene, abbiamo avuto le occasioni e penso che abbiamo vinto anche meritatamente. Sicuramente in Champions ci vuole anche un pizzico di fortuna, abbiamo un'ottima squadra, un ottimo gruppo, siamo in tanti, abbiamo grandi alternative. L'anno scorso siamo usciti con i campioni d'Europa, quindi un piccolo attenuante c'è. Quest'anno sicuramente abbiamo delle qualità per poter fare bene, poi sono tantissime le squadre molto molto forti, però io penso che possiamo fare bene, poi logico ci vuole anche un pizzico di fortuna e speriamo che ci accompagni il più lontano possibile. Ma se Giovinco non gioca nemmeno una partita come quella di ieri, scrive Marco da Vicenza, quando lo vedremo in campo? Domanda legittima, che ci sta tutto, se ne era già parlato ieri, ci sta tutta, e in effetti qualche perplessità questa scelta l'ha lasciata. C'era un altro messaggio interessante, eccola qua. Marione da Milano dice: posso dire che Benzema è il giocatore contemporaneo che più ricorda il Ronaldo dei primi tempi? Sì, senza arrivare a Ronaldo, almeno per il momento, perché non dimentichiamo chi era e cos'era Ronaldo dei tempi d'oro, che non, erano quelli del primo anno dell'Inter, ma erano prima ancora quelli del PSV e quelli del Barcellona. Insomma, aveva 16 anni Ronaldo e già incantava il mondo, quindi Benzema fa delle cose magnifiche, ma ha già qualche annetto in più, tra l'altro, sì, che piano piano coi paragoni, però che qualche sua accelerazione, qualche sua come dire, anche astuzia tecnica, quella per esempio di ieri sera, lui si è aperto l'angolo prima di calciare, sterzando leggermente verso l'esterno, non è una cosa istintivamente da tutti, tantomeno a quella velocità. C'è già un primo ascoltatore. Però prima del primo ascoltatore era carino questo messaggio firmato Mauro da Milano. Lunedì ho cambiato canale alla terza telefonata di un tifoso contro. Sinceramente in trasmissioni così non si sente la mancanza. Appello ai miei colleghi ascoltatori, non roviniamo anche questa. Mauro, io lo condivido, però insomma non mi sembra che poi accada un errore drammatico. Ogni tanto qualche intervento infelice ci può stare. Giuseppe dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. No, volevo dire, io sono il tifoso della Fiorentina, no? Sì. E devo dire che lei è stato molto generoso, perché la Fiorentina quest'anno sta giocando veramente, veramente male. E non lo dico solo per ieri sera, ma dall'inizio del campionato noi ci troviamo su un blog, sul sito su uno dei tanti siti della Fiorentina. E francamente il gioco ha avuto un'evoluzione spaventosa. Alcuni cambi, alcuni giocatori che sono stati acquistati, come dice lei, sicuramente non valevano i soldi che sono stati spesi, e vabbè. Ma io penso comunque che veramente il gioco non ci sia. Continui lanci lunghi per la testa di Girardino, che fa l'impossibile per gestire la palla, mai palla giocata a terra. E quindi veramente il gioco ha avuto un'evoluzione pazzesca. Io penso che lo sbaccio, il gioco il buon gioco sia fondamentale e magari giocare bene non sempre ti porta a vincere le partite o i campionati, però in Italia ci sono poche squadre che fanno un buon calcio, per esempio la Roma di Spalletti, ma anche secondo me il Milan di Ancelotti. Ma anche l'Udinese, anche l'Udinese del primo tempo di Firenze sabato sera, per esempio, poi invece è travolto dalla Fiorentina. Credo che la verità stia a metà, nel senso che è vero, la Fiorentina quest'anno ha fatto fin qui meno di quello che si pensava. È vero che alcuni dei nuovi arrivi, qualcuno forse un po' troppo strombazzato, sta rendendo meno del previsto, a cominciare da Vargas, su questo ci sono pochi dubbi. È vero però anche che alla Fiorentina rispetto all'anno scorso sta mancando, salvo una o due eccezioni, sta mancando un uomo chiave che è Mutu. Poi un po' è mancato per infortunio, un po' è mancato per forma, un po' magari un po' sta mancando per malesseri personali o ambientali o rimorsi di trasferirsi, va a sapere. Comunque non è il Mutu che servirebbe alla Fiorentina. Quando la Fiorentina l'ha avuto, ha vinto o ha giocato comunque delle partite di tutt'altro spessore. Andrea, chiamato da Asti, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Volevo affrontare il tema del supporto che gli attaccanti danno alla manovra. A me sembra che anche nella Fiorentina il cambio Pazzini-Gilardino in questo campionato possa aver giovato da un punto di vista realizzativo, ma oggettivamente ha peggiorato la manovra e quindi non consente di allargare il gioco. Cioè bisogna secondo me rivalutare il contributo che gli attaccanti danno alla manovra. È vero che Gilardino può aver portato qualche gol in più, ma la manovra ne risente e anche il centrocampo ne risente. Poi una piccola domanda prima di lasciarle ascoltarla alla radio sulla formazione dell'Inter di stasera. Pensa che Mourinho possa riproporre la stessa formazione che giocò ad Atene, quindi con Mancini, Adriano e Ibra o no? La saluta, la ringrazio. Andrea, ringrazio lei e imploro pietà per la vigenza. Sinceramente questo patema non, questo dubbio non mi aveva preso, non ho la minima idea di che squadra giocherà. Lo scopriremo stasera e lo scopriremo vivendo, perlomeno dal mio punto di vista. Non sono tanto d'accordo neanche sul primo intervento, cioè sul primo argomento. Mi pare che Gilardino abbia altre caratteristiche migliori di Pazzini dal punto di vista della qualità della manovra. Pazzini forse, ma nemmeno fisicamente, non è che lo valga poi molto di più. A me pare che Gilardino abbia più tecnica, che Pazzini semmai sia più sfondatore, mentre Gilardino è un po' più opportunista. Ma dal punto di vista dello sviluppo della manovra direi di no. No, io penso invece però... bisognerebbe aver visto la Fiorentina più spesso di quelle rare volte invece in cui mi è successo. Io penso invece che sia tutto questo rinnovamento, che è stato ampio indubbiamente, e questa ricchezza di alternative che l'anno scorso non c'erano, che al momento non hanno dato un amalgama a quello che il famoso storico presidente Massimino del Catania pensava di poter comprare al calciomercato, per tornare a una vecchissima gag che fa parte del repertorio storico del calcio italiano. Ministro degli Esteri e Rapporto, buongiorno Fabio Ottavelli. Presente, buongiorno. No, per un commento di metà sessione estera, visto che per domani è tornato in pista il comandante Alberto Bortolotti, che quindi domani commenteremo con lui la doppia serata di Coppa. Allora mi faceva piacere cogliere insieme a te, al di là di quello che ha riguardato le squadre italiane, qualcosa di curioso, di particolarmente bello o di particolarmente negativo che si è visto ieri. Se parliamo della qualità, per esempio, di quella sfida tra l'Alborg e gli scozzesi, possiamo, Sì, si direbbe è come quando ci sono le partite di fine campionato tra le squadre ormai pronte per la retrocessione, un anticipo del prossimo campionato di B. Ecco, diciamo che quella è stata anticipo della prossima Coppa UEFA. In realtà non è nemmeno vero, perché la Coppa UEFA quest'anno ha una qualità media decisamente superiore alle parti basse della Champions. Verissimo. Prova ne sia, Gigi, che la serata di ieri ha già emesso quattro verdetti, perché comunque tutti e quattro i gironi le cui partite sono giocate ieri sera hanno già dato la prima e la seconda. Ora c'è ancora un'indecisione per quanto riguarda il gruppo dell'Arsenal, perché l'Arsenal si giocherà il primo posto contro il Porto, che ha vinto ieri in Turchia, ma poi per il resto le squadre che erano favorite, le squadre che avevano un lignaggio, una Ca Maggiore sono passate. Ora spiace per la Fiorentina, io un minimo di fiducia la riponevo ancora, però onestamente anche vedendo la partita ieri mi pare che il Lione abbia dato una discreta al momento è ancora altra categoria rispetto alla Fiorentina, sì. E mi pare che tu hai detto bene, cioè di questi quattro gironi allora a riprova, beh questa è una tesi mia, ma insomma a riprova del fatto che questa formula per carità è quella che più rassoda è un bel verbo, insomma, che più finanzia le casse sociali di ciascuna delle partecipanti, garantendo almeno 3 partite ciascuno. Però è anche vero che è la peggiore, perché è la più scontata. Se 4 gironi su 4 a fine, cioè a una partita alla fine, sono decisi, beh, insomma, la formula è relativa. Sì, la formula, e poi tieni anche presente Gigi, io poi non è che me ne intenda tanto, però penso anche che mettere 8 partite contemporanee il martedì e 8 partite contemporanee il mercoledì sia una cosa molto divertente se guardi diretta gol e quindi ti puoi divertire. Sì. È altrettanto chiaro che devo ancora incontrarlo uno che guarda contemporaneamente 8 partite, quindi c'è anche un problema forse di dosaggio dello spettacolo che ovviamente quando è così spalmato fatica a essere gradevole. Insomma. Certo. L'hai detto tu, la partita tra Aalborg e Celtic certamente non triste, non è stata, considerando che parliamo di Coppa Campioni, in teoria Coppa Campioni poi diventa da febbraio, per mio, insomma, parliamo di Champions League, abbastanza avvilente. È ovvio che oltre alla formula ci sono anche dei demeriti, perché la Fiorentina qualcosa di più doveva farlo. L'altra delusione direi complessiva è lo Zenit di questi quattro gironi. Ci aspettavamo molto di più dallo Zenit, perché questa è una squadra che ha vinto la Coppa UEFA ed è questa la squadra che ha vinto la Supercoppa contro il Manchester United. Sui russi però bisogna sempre mettere un asterisco, nel senso che va sempre valutata poi la loro tenuta. Loro sono a fine campionato, lo Zenit già nel suo campionato non è andata granché bene, e quindi questa è una vecchia teoria, se non sbaglio, di Dan Peterson, secondo il quale poteva essere più interessante giocare le coppe a fine campionato in modo da mettere i campioni dell'attuale stagione di fronte e non i campioni della stagione precedente, perché effettivamente a volte ci sono squadre che vincono un po' a sorprese i campionati, poi magari vengono un po' depauperate dei loro elementi migliori. Non è tutto il caso dello Zenit, perché non ha perso troppi grandi elementi, qualcuno sì, e quindi insomma diciamo che lo Zenit di marzo, aprile, maggio della scorsa stagione forse meritava di essere a giocarsi gli ottavi e i quarti della Champions League. Lo Zenit di oggi francamente ha fatto poco più del Bate Borisov, ecco, non è una squadra che possa impensierire Juventus e Real Madrid, ed effettivamente non le ha impensierite più di tanto. No, di fatto disastroso anche il rendimento in campionato, può darsi che giocatolo insomma sia durato poco. Il programma di stasera, per farti scegliere fior da fiore qualcosa da segnalarci, allora sorvolo sulle due italiane che sappiamo e di cui poi sentiremo le vigilie degli allenatori e dei capitani. Il programma prevede Bordeaux-Chelsea, Anorthosis-Werder, Sporting-Barcellona, Shakhtar-Basilea, Liverpool-Marsiglia e Atletico-PSV. Dove puntiamo i riflettori? Francamente nel gruppo del Liverpool, che mi sembra comunque quello con almeno 3 squadre. Purtroppo il PSV non è in una grande fase della sua storia, però l'Atletico è una bella squadra, lo stesso Marsiglia. Il Liverpool se lo ricorda bene, perché l'anno scorso dovette fare una fatica terribile e perse in casa con un gol di Valbuena e dovette andare a qualificarsi vincendo a Marsiglia l'ultima giornata. Quindi direi che lì possiamo vedere qualcosa. Tra le partite non da prima serata ci metto Shakhtar, la partita dello Shakhtar contro il Basilea. Sono abbastanza curioso di vedere il Barcellona con che tipo di squadra andrà a Lisbona, e poi per il resto direi normalità. Ovviamente è molto importante per la Roma il risultato della partita tra il Bordeaux e il Chelsea, perché fermo restando che la Roma, io penso adesso, ieri non ho portato benissimo la Fiorentina, però ragionevolmente la Roma non può non essere favorita contro il Cluj. Certo che se quelli là si dividessero la posta, per la Roma sarebbe un bel colpo. Ah, sicuro, a parte il fatto che ieri insomma sulla vigilia della Fiorentina più che altro non eravamo così convinti della forza del Lione, e invece il Lione evidentemente in campionato, anche a Parigi domenica, ha un po' mollato il tiro in vista della Coppa, proprio perché il campionato può giocarsela con un margine. Lione ha un vantaggio tale e tanto che, certo. ma poi onestamente hanno vinto 6 campionati di fila, chiedere al Lione di essere concentrato tutte le domeniche mi sembra anche eccessivo. Loro hanno questo obiettivo della Champions League, loro perseguono da anni, non riescono mai ad andare oltre i quarti, probabilmente non ce la farà nemmeno quest'anno, però era chiaro che andando fuori, fossero andati fuori o quantomeno a rischiare l'ultima giornata già nel girone di qualificazione, sarebbe stato uno smacco pesante. Insomma, poi di ieri sera mi piace ricordare il primo gol di Luca Toni in Champions League, sì. comunque un evento, ci ha quasi lasciato una spalla per segnare lui, è vero. Che in questo periodo è molto più legnoso del solito, lo vedi questi trampoloni che si porta in giro per il campo. Però insomma è uno che quando la palla entra nei 16 metri qualcosa combina, insomma, o di sponda o la butta dentro lui. Anche nei momenti peggiori comunque Toni qualcosa combina. Certo, comunque ho dato un'occhiata alla formazione molto probabile Barcellona di stasera a Lisbona. Ci sono Messi, Eto'o e Henry davanti, quindi sì. la stanno prendendo abbastanza sul serio. Le grandi loro, loro in campionato settimana scorsa con Messi fuori boiano un po' deluso, quindi credo che Guardiola non voglia più rischiare. No, ma anche perché poi comunque insomma, l'esperienza insegna che il primo posto nel girone è assai più rassicurante del secondo. Sì, decisamente. Perché il vantaggio comunque poi del ritorno in casa comunque è oggettivo, che chiunque tu vada a pescare. Oltre il fatto che andrai contro una seconda, teoricamente, ma siamo nella teoria pura, è più scarsa di una prima. Teoricamente sì, poi non sempre accade, ma la maggior parte delle volte è esattamente anche perché passano 3 mesi e sono 3 mesi importanti, perché poi si rifà la preparazione. Tranne gli inglesi, molte squadre rifanno la preparazione a... soprattutto le tedesche, ad esempio il Bayern di Monaco si fermerà un mese abbondante in campionato e quindi rifarà bene la preparazione, quindi il Bayern di Monaco a febbraio potrebbe essere ancora più pericoloso. Certo, grazie Fabio, buona giornata a tutti. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24. La formazione presunta dell'Inter di stasera, perché poi qualche sorpresa potrebbe esserci, ma insomma dovrebbe essere la stessa che ha giocato contro la Juventus, quindi Maicon, Cordoba, Materazzi e Maxwell in difesa, Zanetti, Cambiasso e Muntari in centrocampo dietro a Stankovic, con questa formula più o meno a rombo, e Adriano davanti di fianco a Ibrahimovic. Questo perlomeno è quella alla vigilia, visto che prima un ascoltatore aveva fatto questa domanda. Possiamo tornare ad ascoltare proprio le vigilie, per esempio quella di sentiamo quella di Mourinho prima. Non ho paura del Panathinaikos, ho paura di noi. Dopo la Roma abbiamo iniziato un periodo difficile. Io abbiamo fatto 2 giorni fa la migliore partita di tutta la stagione, penso che siamo tutti d'accordo. E c'è di nuovo il pericolo di andare un po' indietro. Questo è calcio e l'esperienza mi dice che è buono non dimenticare che se perdiamo la partita siamo in grande rischio. La rilassatezza come nemico. Prima dell'intervallo, Fabio da Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare un piccolo appunto alla partita di ieri sera. Sono un tifoso della Fiorentina, contento lo stesso della partecipazione, perché è sempre motivo di vanto per una squadra. E un piccolo appunto forse alla società non aver preso un buon difensore. Vedendo tante partite della Fiorentina subiamo troppe occasioni le volte, oltre all'inesperienza di una squadra sicuramente giovane. Sì, forse han pescato molto, non dico troppo, ma han pescato molto in mezzo, e, insomma, nel centrocampo e nel centrocampo avanzato hanno un po' trascurato forse quel settore, può essere vero. La vigilia della Roma nelle parole di Spalletti. Mirko, ho deciso di non farla allenare, ha un po' di rappressione, ha un po' di temperatura, nel senso non di febbre, però non sta benissimo, mentre poi ci sono 2 o 3 piccoli problemini che ci portiamo dietro dalla partita precedente, però quelli sono sicuramente aggiustabili. Ecco. E lì è iniziato il momento, il periodo di difficoltà, se riuscissimo a vincere questa partita potrebbe sancire poi che siamo usciti da questo periodo e che avremo delle prospettive importanti. Oh, Mirko è Vucinic, ovviamente. La Roma giocherà, dovrebbe giocare con Doni, Cassetti, Mexes, Juan e Tonetto sulla linea arretrata, Taddei, De Rossi e Brighi a metà campo con Perrotta, anche lì perno più avanzato oppure uomo più avanzato del rombo, e Baptista più o meno a girare intorno a Totti. Questa è la formula, avete sentito che Vucinic difficilmente ce la farà. In panchina ci sono Loria e Rise, ed è meglio che siano in panchina anziché in campo, anche se questa può passare per una cattiveria. E poi comunque la Roma ha recuperato praticamente tutti i suoi effettivi, perché in panchina ci sono anche Pizarro, Aquilani, Menes, quindi insomma, mi sembra un'altra Roma rispetto a quella che, oltre alle disavventure, aveva avuto qualche problema di troppo in avvio di stagione. Una lettura perché mi sembra molto interessante quello che ha pubblicato stamane Franco Arturi nella sua rubrica Porto Franco sulla Gazzetta dello Sport. Il mercoledì la rubrica della Posta della Gazzetta, che è quotidiana, insomma, mi sembra il giorno clou della settimana. E allora Franco Arturi, rispondendo poi a questo lettore di cui ha pubblicato questa lettera, gli chiede anche scusa, dice: le chiedo scusa se la metto in mezzo, ma credo che lei se la sia cercata. Perché? Perché la lettera era arrivata alla Gazzetta prima di Inter Juventus, mi ha molto ricordato cose dello stesso genere che arrivano anche qua prima, ma magari anche dopo. La lettera firmata Alessio Guidotti è la seguente: cara Gazzetta, mi viene da ridere quando è da lunedì che chiedete a esperti e tifosi come finirà Inter-Juventus, la madre di tutte le truffe. Il bello è che c'è anche chi vi risponde. Questa è una partita già decisa, infatti bene che vada l'Inter potrà strappare al massimo un soffertissimo pareggio, si troverà a giocare contro tutto e contro tutti, visto che il Palazzo sta preparando da settimane questa sfida. Per esempio attraverso la munizione di Cordoba a Palermo, così che per Inter Juve ci sarà un Cordoba in meno, un Sissoko in più per la mancanza di almeno due cartellini gialli. Infine la rinuncia studiata da mesi di Lippi di portare Del Piero in nazionale, la gara sarà diletta dai due storici amuleti bianconeri, o Rizzoli o Rocchi, quindi per l'Inter speranze di vittoria praticamente zero. Voglio farne anche un pronostico più preciso: 0-1 gol di Del Piero e roventi polemiche nel finale, ovviamente da parte nerazzurra. Allora, questo è un delirio da una parte, io ne ho letti e ho ricevuti anche di deliri dall'altra. Chissà se poi quando questo signore si vede stampato sulla Gazzetta una lettera di questo genere, ovviamente a cosa vedete, chissà se almeno un minimo di rossore oppure un insegnamento per la volta successiva. Abbiamo un problema sul centralino, perché non riusciamo in questo momento a ricevere le vostre, o meglio a mandare in onda le telefonate che abbiamo ricevuto da voi. Non stiamo riuscendo a richiamarvi. C'è Rosa con i capelli dritti, la sto vedendo al di là dal vetro della regia, e quindi continuiamo con l'ascolto di beh, intanto c'è un breve frammento di questo allenatore della squadra che stasera affronta la Roma e che aveva fatto lo scherzetto dell'andata, che si ricorderà. Quindi sentiamo il prode trombetta. Io credo che se lasciamo troppo spazio agli attaccanti, loro diventano ancora più pericolosi, però non lasceremo niente di intentato per vincere la partita. E questo lo credo bene. Sino a che dura questo piccolo blackout telefonico, piccolo mi auguro, ne approfitto per leggere i vostri messaggi. Anziché alle voci diamo spazio agli iscritti. Nella Fiorentina, scrive Antonio, ho visto un Montolivo inguardabile, credo che sia un giocatore con troppi alti e bassi. Sbaglio? Antonio sbaglia con l'inguardabile, perché sinceramente mi sembra che questo aggettivo da pay TV sia ormai un po' tanto inflazionato e soprattutto eccessivo. Certo, il fatto che abbia alti e bassi invece è perfettamente centrato come giudizio, perché in una stessa partita anche aveva giocato un primo tempo mediocre, per esempio contro l'Udinese, e poi ha trovato un grande secondo tempo. Si pensava si pensava di, insomma, che potesse ripetersi contro il Lione, non è andata così. È indubbio che Montolivo, grande promessa indubbiamente, sta facendo molta più fatica a mantenere di quello che i suoi numeri, il suo talento potevano autorizzare a sperare. Mail, per esempio, in arrivo. Questa di Antonio Durante, che è un ascoltatore abbastanza affezionato, la trovo interessante perché dice, a proposito della ammuina, la chiama lui, inventata da Zenga e dai suoi giocatori sulle punizioni, eccetera, partendo anche da quella sciocchezza dell'abbassamento dei calzoncini, eccetera. Lui dice che effettivamente si potrebbe stabilire una regola secondo cui in barriera possono stare solo i giocatori della squadra che ha subito la punizione e stop. Cioè, è un po' tranchant, se vogliamo, ma insomma a pensarci non sarebbe una cattiva trovata, perché è indubbio che la presenza in barriera della squadra, diciamo, attaccante, della squadra che della punizione fruisce, in fondo non che sia una scorrettezza, è legittima, cioè il regolamento la consente, ma è comunque, diciamo, catalogabile tra le furbate, magari ammissibili, sicché insomma il ragionamento ci può stare. È più interessante che questo ascoltatore, ripeto, Antonio Durante, conclude così: basterebbe che l'associazione diretta da un colonnello svizzero, contraddizione in termini, questa non è male, e cioè da Blatter, quindi la FIFA, prendesse esempio dalla Federazione Mondiale del Rugby. Fino a qualche anno fa nella touche era vietato aiutare il saltatore a prendere la palla ovale sul lancio. I giocatori di mischia erano riusciti a inventare trucchi di ogni genere per aggirare questa regola. Per eliminare la discrezionalità derivante da questa fase di gioco, la regola è stata cambiata, rendendo legale l'ascensore, cioè il fatto che i giocatori sollevino il più dotato di loro per la presa della rimessa, e tutta la fase di gioco si è velocizzata e non ha più creato problemi. Questo scrive Antonio Durante, e questa mi sembra una osservazione oggettivamente intelligente e documentata a proposito di quello che sta succedendo in fasi di gioco che sono diventate un po' tanto complesse da gestire, e stiamo parlando di semplici punizioni e non di calci di rigore. Abbiamo una voce da ascoltare che arriva dall'estero, ed è sorprendente che arrivi dall'estero, visto che l'italiano che Evra parla è un italiano molto, molto fluente. Sentiamo. Quello che volevamo, perché volevamo vincere questa partita, è importante finire primo del gruppo, ma è vero che è un risultato che ci va bene anche stasera. Per il momento è difficile di parlare di questo, perché siamo all'inizio della competizione, però io ho paura del Manchester, e il Manchester è la squadra che ho più paura, perché non è facile tenere i suoi trofei, lo merita. Se lui non vince il Ballone d'Oro, io mi fermo di giocare a calcio, perché l'anno scorso, l'anno che ha fatto 42 gol, cioè è incredibile, per me l'ha già vinto il Pallone d'Oro. Evra stava parlando del suo compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. La squadra che mi fa paura è il Manchester, sembra un po' echeggiare Mourinho quando diceva prima la squadra che fa paura a me è l'Inter. Un'altra mail, Massimo da Como, che si definisce tifoso milanista. Ogni domenica, molto interessante, ogni domenica si vedono calciatori che arrivano in fondo al campo e crossano in curva, ma nessuno si permette di dire che il giocatore in questione è scarso. Faccio una parentesi, non è vero, lo possiamo anche dire. Ogni domenica, continua Massimo, ogni fischio, giusto o sbagliato che sia, viene vivisezionato da tutte le moviole, e non ci si rende conto che a velocità normale è tutto molto più difficile e più complicato. Rimango anche ogni domenica scandalizzato da come giocatori agili, forti, prestanti caschino in terra per un buffetto o un soffio in un altro giocatore, stramazzando al suolo quasi gli avessero sparato, per poi assalire gli arbitri per una decisione presa a loro svantaggio. Sicuramente gli arbitri sbagliano, sarebbe impossibile non farlo, ma altrettanto sicuramente sbagliano i giocatori con i loro gesti atletici e con i loro comportamenti. Massimo, lei si renderà conto, credo, di essere se non una mosca bianca qualcosa del genere, quello che scrive è fin troppo vero. Non so se le è capitato ieri sera di vedere una sequenza che qualcuno in TV ha definito comica, la conduttrice di del programma di approfondimento Rai sulle coppe. L'ha definita comica, era vergognosa, era ripugnante addirittura da un punto di vista sportivo, e quindi tutt'altro che divertente, anche se sentivano i singhiozzi di riso, ripeto, della bella conduttrice. Perché? Perché questo giocatore ha simulato, e parliamo di Champions League, ha simulato una scorrettezza avversaria che assolutamente non c'era, è rimasto a terra a torcersi dal dolore, per poi invece appena riconquistata palla, per poi risorgere all'improvviso e correre scatenato verso la porta avversaria. Una sequenza, ripeto, sportivamente ripugnante. L'intervallo, no, non ancora l'intervallo per la viabilità. Piero ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per l'attenzione. E l'attenzione ci abbiamo messo un po' perché c'era un piccolo blackout telefonico, ma siamo riusciti a ripescare qualcuno di voi. Speriamo, dai. Piero, senta, dottore, dica. Io purtroppo sono costretto a essere solo felicemente tifoso della nazionale, perché il 98% delle chiamate che arrivano sono dei tifosi della Juventus, dell'Inter e del Milan. Delle altre squadre che io le considero squadre in materasso, purtroppo non c'è possibilità di poter andare avanti, perché il loro budget economico è quello che è, per cui le squadre sono più deboli, le società sono più deboli. Che cosa partecipano a fare? Questo io vorrei sapere. Che soddisfazione c'è nel vedere vincere sempre le stesse e medesime squadre? Poi i bambini, ovviamente, quando sono piccoli, vedono il sivoli della situazione, vedono l'alta fine della situazione, vedono il nord della situazione e diventano tifosi dell'Inter, del Milan, della Juve, e gli altri le briciole. Allora la mia non è una polemica, capito. È una constatazione. Certo. Per quale motivo non partiamo tutti alla pari? Cioè non è possibile che uno partecipa avendo 10 ville e l'altro c'ha una casa popolare. Certo, Piero, però lei ha detto prima, ha citato tre giocatori, come dire, vagamente datati, uno purtroppo Sivoli è già anche scomparso, insomma ha citato tre campioni di 50 anni fa a grandi linee, e ha citato quindi ha raccontato e ha testimoniato che questa disparità esiste almeno da 50 anni, quindi che poi si possa fare qualcosa perché non diventi troppo estremizzata come è adesso, e quindi che vada in qualche maniera combattuto o avversata, siamo d'accordo, ma che sia sempre esistita è altrettanto vero. Torniamo in onda con il consueto appuntamento di quest'ora, con il ripasso della storia, che cosa è accaduto nella storia dello sport il 26 di novembre, ce lo racconta come ogni giorno Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 novembre 1996. A Tokyo la Juventus conquista la sua seconda Coppa Intercontinentale, dopo quella ottenuta nell'85 contro l'Argentinos Juniors. Stavolta gli uomini di Lippi superano per 1-0 il River Plate. Zidane e compagni esercitano una netta supremazia, ma per sbloccare la partita, dopo una serie impressionante di occasioni sprecate, devono attendere l'82esimo. A scardinare la difesa del River ci pensa Alex Del Piero, capace di trovare una traiettoria imparabile con una girata nel cuore dell'area. È uno dei gol più preziosi nella carriera di Del Piero, quello che lo ha consacrato a livello internazionale. La Coppa Intercontinentale della Juventus firmata da Del Piero, dunque. Tocca a Mario da Firenze, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Buongiorno a lei. E le volevo dire, io sono tifoso della Fiorentina, purtroppo, da quasi 50 anni. E mi domando, per fare quelle figure che ha fatto la Fiorentina nel girone di Champions, uno era meglio mandarci in Milan, che un anno sì, un anno no, la vince. Perché a noi ci vogliono far passare da bischeri, va bene? Ci sa una squadra qui, ci sa una squadra là, quest'anno qui, quest'anno. Noi ci sa Musu, che la girava tutte le squadre d'Italia, se era buono rimaneva quando era. E lo scarto di Milan, il centravanti è lo scarto di Milan. Queste sono le nostre punte di diamante, e il Montolivo dovrebbe essere l'erede di Antonioni e di Rui Costa. Ma nemmeno lunghi ad un piede. Mario, Ho sott'occhio un messaggio firmato Loris da Verona che dice: che bello il programma senza interventi telefonici, pensateci, grazie. Loris, non so, se ha sentito questo, lei capirà che la sua tesi non può passare mai. È vero che quelli spiritosi, e poi con la fortuna di questa lingua fiorentina irresistibile, spiritosi che sono pochi, però è anche vero che ne basta uno ogni tanto comunque per tirarsi un po' sul morale, no? Indipendentemente dalle opinioni che erano indubbiamente un po' tranchant, però insomma il divertimento c'era. Non manca molto alla fine dell'appuntamento un po' tormentato di oggi. Peraltro Massimiliano ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, le faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io volevo sentire la sua opinione su questo. Io ieri sera sono entrato tardi, ho visto sulla Rai la spezzone della partita, a me ha colpito molto Lione, che secondo me è una grandissima squadra, messa in campo e tutto bene, ma mi ha colpito tantissimo quello che ha detto Prandelli, che è un allenatore che stimo tantissimo, che ho visto qui a Verona, dicendo che la sua squadra ha dei tassi tecnici veramente molto validi e che può competere a certi livelli. Cioè, secondo me la Fiorentina quest'anno ha dei grossi problemi di centrocampo in maniera incredibile, ha cambiato il suo credo da un 4-4-2 che è sempre stato la sua politica a un 4-3-3, che poi si gioca in 10 fuori, uno in porta a Frey che sta parando in una maniera incredibile. Cioè, volevo sentire la sua opinione su questo e chiedere la sua opinione sul brasiliano Juninho lì, che calcia le punizioni in una maniera allucinante. Cioè, questo qua in Italia non ho mai sentito nominare da nessuno se poteva essere acquistato, e mi sembra che invece sia un giocatore che sappia veramente fatto suo. L'ascolto per radio, grazie, buona giornata. Grazie a lei Massimiliano. Beh, insomma, Juninho non è un bambino, non è un poppante. Juninho è a Lione, io credo proprio dal primo di questi 7 scudetti di fila che hanno vinto, credo che siano 7-8 anni che è lì, è un brasiliano che ha passato i 30 tranquillamente, direi che ne ha 33 a occhio e croce, è un signor giocatore. Poi diciamo che la sua specialità vera è balistica, nel senso che non è altrettanto abile come tessitore di gioco rispetto a come lo è a palla ferma, ma a palla ferma intanto è un signor giocatore comunque, ma poi a palla ferma è il miglior specialista che ci sia oggi al mondo, io credo, perché è in grado di colpire, intanto la porta la prende anche la distanza impossibile, la prende da 8 a 9 volte su 10 e la prende per l'appunto da distanze incredibili. Allora mi informano Flavio Suardi che Juninho è a Lione dal 2001, quindi è l'ottava stagione nel 2001, è del 30 gennaio del 75, quindi ha per l'appunto 33 anni, come ha detto invece Michelino di là dal vetro, mi mandomi il numero. Oggi c'è collaborazione tra tutti, anche perché con i centralini vagamente disastrati dobbiamo cercare tra tutti di darci una mano. Abbiamo fatto spogliatoio oggi, mi pare che qualcuno di voi l'abbia colto, no? e lo vedo dai messaggi. C'erano anche altri commenti piacevoli e divertenti a parecchi interventi telefonici, ma insomma quello che mi piace sottolineare è quello di Francesco da Verona che dice: quello del mio amico toscano lì prima è uno degli interventi più divertenti dell'anno. Controfirmo e saluto e ringrazio Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione. Vi lascio al Giornale Radio, a domani.